Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca, dell'Associazione Culturale Energicamente, con sede a Firenze e a Roma. Oggi vorrei parlarvi di un particolare tipo di respirazione, la respirazione Anapanasati. La parola Sati in sanscrito significa attenzione consapevole. Un termine oggi molto usato, spesso abusato, utile a tradurla, è mindfulness. Il termine Anapana, invece, si riferisce proprio all'atto del respiro e da come questo viene compiuto, ovvero alle modalità attraverso le quali si compie l'atto di inalazione e a quelle attraverso le quali si compie l'atto di espirazione. Anapanasati, quindi, è attenzione consapevole sul respiro o consapevolezza del respiro stesso o addirittura meditazione sul respiro. Si tratta di una pratica di origine buddista utilizzata per incrementare consapevolezza, concentrazione, conoscenza del proprio corpo e autocoscienza. È un tipo di meditazione estremamente versatile ed accessibile a chiunque, a prescindere questo dal proprio credo religioso o filosofico ed anche e soprattutto ai principianti, quindi a chi non ha mai praticato meditazione o particolari forme di respirazione consapevole. La meditazione sul respiro è un modo per entrare in contatto con il proprio corpo e per prendere coscienza del posto che si occupa all'interno del mondo. Anapanasati, infatti, comporta l'ascolto di tutte le sensazioni provocate dal respiro all'interno del nostro corpo stesso. Anapanasati è anche e soprattutto un modo per rimanere focalizzati sul momento presente. Concentrandosi su ogni singolo respiro, infatti, è più facile rimanere nel presente senza permettere alla nostra mente di vagare nel passato o nel futuro. Ecco come praticarla. Il sutra che spiega come eseguire questa meditazione e gli effetti della stessa è molto complesso. All'inizio però, specie per chi è inesperto di tecniche di meditazione, quello che conta è proprio imparare a concentrarsi esclusivamente sul respiro. È necessario quindi trovare un posto il più tranquillo possibile e nel quale tornare a praticare sempre questo tipo di meditazione, specialmente i primi tempi, per consentire al vostro corpo di rilassarsi al meglio. Si inizia mettendosi seduti comodi, dove si vuole, su una sedia per terra a gambe incrociate, per chi riesce anche in posizione del loto o mezzo loto. È importante che la schiena sia dritta. Potete appoggiare le mani sulle gambe o con i palmi rivolti verso l'alto in grembo, tenendo il dorso della mano destra appoggiato sul palmo della mano sinistra. A questo punto iniziate a portare l'attenzione sul vostro respiro. Questo può essere profondo, lento, affrettato, corto, non importa, non cercate in alcun modo di cambiarlo. Può essere utile anche portare l'attenzione sul punto della vostra testa dove il flusso del respiro è per voi più immediatamente percepibile. Ad esempio, nel punto posto sopra le labbra e in mezzo alle narici, il cosiddetto Anapana Spot. Oppure potete concentrarvi sul movimento compiuto dal vostro addome nel momento stesso in cui inspirate e in quello in cui espirate. Questa pratica è particolarmente facile se ponete una mano, se appoggiate proprio una mano sul vostro grembo. Sempre per chi inizia, può essere anche utile contare il numero delle inspirazioni ed il numero delle espirazioni, ma soprattutto, come già detto, concentrarsi e prendere atto del tipo di respiro: profondo, rilassato, breve, forzato, spontaneo, toracico o addominale. Continuate così fino a che sentirete il percorso che l'aria compie nel vostro corpo passando da naso, gola e polmoni. Avvertirete il diaframma che si alza e si abbassa ed il senso di rilassamento che quasi immediatamente ne seguirà. Inspiro e sono consapevole del mio corpo. Espiro e sono consapevole del mio corpo. Inspiro e calmo il mio corpo. Espiro e calmo il mio corpo. Inspiro e provo gioia per tutto ciò che ho. Espiro e provo gioia per tutto ciò che ho. Inspiro e sono consapevole di tutte le situazioni che ho in me. Espiro e sono consapevole di tutte le sensazioni che ho in me. Inspiro e rasseno la mente. Espiro e rassereno la mente. Inspiro e placo la mente. Espiro e placo la mente. Ci vuole un po' di tempo ed esercizio, naturalmente. Questa pratica nel corso del tempo però vi porterà a calmare il vostro corpo e la vostra mente in ogni situazione e a divenire consapevoli, soprattutto proprio mentre state respirando, di ogni vostra emozione che turba la tranquillità. Vi aiuterà a placare queste sensazioni attraverso il gesto più naturale di tutti, ovvero sia respirare. Io vi ringrazio per l'attenzione prestatami, ringrazio anche Radio Big World per l'opportunità concessaci e a risentirci alla prossima settimana. Namaste.